Buongiorno anche a chi è qui per la prima volta. Fai una cosa, dai un high five, si dice in inglese, un batti 5 alla persona che ti sta a fianco. È così bello averti vicino, sai? Anche se non ti conosco, è un piacere averti vicino a me. Chiesa è famiglia, io lo voglio ricordare, la Chiesa non è un edificio, la Chiesa non è un'istituzione religiosa. Leggendo la Bibbia e documentandoti da quella che è la fonte per eccellenza che ci spiega chi è Gesù, che cosa ha insegnato, che cos'è la Chiesa, chi siamo noi, tu scoprirai che la parola di Dio mostra che la Chiesa è famiglia, è una famiglia che si ama, è una famiglia perché ha un padre in comune. Noi abbiamo tutti quanti un padre in comune che riconosciamo come colui che ci ha adottati, e noi eravamo inadottabili. Permettetemi di utilizzare questo termine. Noi eravamo inadottabili a causa dei nostri peccati, a causa della nostra ribellione, a causa della nostra indipendenza, il nostro disinteresse nei confronti del nostro stesso creatore. Però Gesù è venuto, ha presentato a noi la possibilità di accedere al Padre non attraverso le buone opere che noi possiamo fare per guadagnarci il merito di Dio, ma attraverso quello che è la grazia che viene elargita. La grazia è il dono immeritato di Dio verso ogni persona che crede nel sacrificio di Gesù Cristo. E oggi noi celebreremo quello che è stato il sacrificio di Gesù, mangiando del pane, mangiando del vino, che sono simboli appunto proprio della sua morte, della sua resurrezione. E nel fare questo noi ricordiamo a noi stessi che è grazie a Gesù, è solo grazie a Lui che noi abbiamo accesso diretto al Padre e siamo adottati una volta e per sempre, perché noi veniamo salvati una volta e per sempre. Non la perdiamo la salvezza, perché non dipende da come ti comporti, da quanti meriti hai, da quanto riesci a guadagnarti il merito di Dio. No, la parola di Dio ci dice che la nostra salvezza è ottenuta per tutto quello che Gesù ha già fatto. Quindi basta credere in Lui e di conseguenza noi abbiamo la vita eterna, la salvezza. Ci piace? Non voglio parlare di salvezza stamattina, ma la tematica di quest'anno per la nostra Chiesa è di... Ah, vi vedo preparati. E il primo messaggio che ho dato di questa serie è stato, almeno in questo periodo, è stato la gloria della maturità. Ve lo ricordate? La gloria della maturità. Dio ci invita a crescere. Essendo Dio un padre, ogni padre vuole per i suoi figli che loro crescano. E anche se io sarò un po' pungente nelle mie parole oggi, quanti vogliono che sia quanto più pungente possibile, no? Bravi, bravi, mi piace così. Se lo sono, se c'è correzione, se ci sono parole dritte, dure, è perché in realtà noi abbiamo un padre che è talmente amorevole che non sopporta l'idea che noi rimaniamo nella stessa condizione. Lui non vuole che noi rimaniamo dei bambini immaturi, lui vuole che noi cresciamo. Per questo noi leggiamo che attraverso l'accesso di Cristo Gesù alla sua presenza noi veniamo trasformati di gloria in gloria, è una progressione. Quindi abbraccia la sfida di essere maturo. Abbiamo parlato della gloria delle battaglie, abbiamo visto come la parola di Dio ci mostra che non perché siamo credenti siamo esenti da battaglie. Ma ciò che cambia in qualità di credenti, come c'è scritto in Romani, è che ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Cristo Gesù. Quindi anche le battaglie che ci ritroviamo ad affrontare in realtà ci danno l'opportunità di crescere di gloria in gloria. Abbiamo imparato un verso a memoria domenica scorsa. Chi se lo ricorda? Per alzata di mano. Così vengo col microfono a chiederlo. Ah, li abbassate tutti le mani. Lo ripetiamo insieme: il Signore che mi liberò. Ora, se sei qui per la prima volta e senti per la prima volta questo versetto, dici: ma che cosa avete, di cosa avete parlato? Di zampa di leone, zampa di orso, mano del Filisteo. Beh, se hai mancato il messaggio di domenica scorsa, ti invito ad andarlo ad ascoltare. Dio ci libera. Dio è il liberatore e Lui attraverso le battaglie fa crescere la nostra fede. Se quelle battaglie noi le viviamo con Lui, perché quando noi viviamo le battaglie con Lui, noi cresciamo nella nostra fede e siamo più idonei ad affrontare battaglie più grandi. Non è bello questo? Tu diventi sempre più idoneo a battaglie più grandi. Se ti trovi davanti a una battaglia che ti sta lasciando un po' perplesso, a dire, caspita, questo non me l'aspettavo, un po' troppo grande, riconosci in questo che Dio ti ritiene maturo abbastanza da poter affrontare non più la zampa del leone, forse la zampa dell'orso, oppure addirittura la mano del Filisteo, un gigante. Non c'è gigante che tenga davanti a un figlio di Dio che ha fede nel Dio Altissimo che può ogni cosa. Amen? Ci crediamo a questo? È bello che perdo l'equilibrio dallo sgabello a dirlo, perché mi entusiasma tantissimo sapere che ciascuno di noi è ritenuto idoneo da parte di Dio ad ogni battaglia che ci sta davanti. E io credo che tu puoi trovare forza in Dio. Io oggi voglio parlare di un'altra gloria, di un altro passaggio di gloria, ed è la gloria della rinuncia. Per farlo però vorrei chiedere ad Antonio di portare l'illustrazione, gli elementi illustrativi. Sì, facciamolo più forte l'applauso ad Antonio. Ah, e nel lettino effettivamente ho altre cose da farvi vedere, perché il bello di questa serie di messaggi è che poi facendolo, no, vi ricordate, proprio la primissima sera, il Signore ha dato dei sottotitoli. Io avevo pensato a questi titoli molto idonei, sai, da mettere su YouTube, perfetti, però il Signore ha ispirato dei sottotitoli. Allora, al messaggio La gloria della maturità, il Signore ha parlato con questo sottotitolo al cuore di tutti noi, ed era Lascia il biberon. Vi ricordate? Quanto è triste pensare a un uomo di 41 anni, lo diceva Gianluca, io non c'ho 41 anni, io ne ho molto meno perché sono il figlio piccolo, e quindi era Gianluca che diceva, quanto è triste pensare a un uomo di 41 anni che sta ancora lì a ciucciare il biberon. Non lo farò perché è un biberon di qualcuno delle mamme. Ne abbiamo così tante che è stato facilissimo rimediare materiale dei bambini. E quindi Lascia il biberon è stato il primo sottotitolo. Il secondo sottotitolo, ancora più divertente, era Lascia il pannolone, perché siamo tutti adulti, e quindi un pannolino ci sta. Devo rimediare un pannolone ora che ci penso. Però ora immaginate, non lo metterò, non lo indosserò. Però immaginate che io ancora indossi il pannolino. Quanto è triste un'immagine del genere. E questa era la gloria delle battaglie. Togli il pannolino, affronta la battaglia con coraggio. Il titolo del messaggio di oggi, come ho detto, è La gloria della rinuncia. E quindi il sottotitolo è Esci dal lettino. Mi piace? Esci dal lettino. Puoi dire alla persona che ti sta a fianco, esci dal lettino, dai. Esci dal lettino, non è più tempo di stare nel lettino. Il lettino che vedete oggi qui sul palco è una gentile concessione di Regina e Leo, che voglio ringraziare. E a proposito, Regina se ne vuole sbarazzare, quindi se c'è qualcuno che è interessato all'acquisto potete andare da Regina, e a una modica cifra di 1.500 euro sarà vostro. 1.450 entreranno in tasca mia, la restante parte... Va bene, comunque, a parte gli scherzi, esci dal lettino. Ed è Gesù che ci mostra proprio questo invito, e lo vediamo in realtà proprio nel primissimo episodio nel quale Gesù chiama i suoi discepoli. Non li invita a fare qualcosa di semplice, li invita a rinunciare a tutto e a seguirlo, ed è bellissimo leggere che loro l'hanno fatto. Quindi leggiamo insieme dal Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetto 16, che cosa c'è scritto. Noi dipendiamo dalla parola di Dio, io non voglio dire niente di mio, quindi se dovete prestare attenzione a delle parole, prestate attenzione alle parole che adesso ancora più in lettere giganti proiettiamo ogni domenica. È la parola di Dio, è la Bibbia che dice che mentre passava, e parla di Gesù, mentre passava lungo il mare di Galilea, egli vide Simone e Andrea, fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro, seguitemi, seguitemi. Gesù ha usato un imperativo, seguitemi. E guardate cosa aggiunge, e io farò di voi dei pescatori di uomini. Guardate la risposta. Essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, andando un po' più oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti. E subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo, loro padre, nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. Qui noi stiamo leggendo di quella che era una giornata ordinaria, di uomini estremamente ordinari, che facevano cose ordinarie. Pescatori che rassettavano le reti, che erano nella loro barca, che facevano quello che ogni giorno facevano perché erano pescatori. E quello che noi leggiamo in questi versi è quello che Dio ama fare nella vita di ciascuno di noi. Lui ci incontra nel nostro ordinario e ci invita a vivere una vita straordinaria, perché lui cambia ciò che è ordinario in straordinario. E Pietro, quando ha risposto, non poteva immaginare che da lì a pochi anni si sarebbe ritrovato davanti a una folla di migliaia di persone e attraverso il suo messaggio 3.000 uomini avrebbero accettato il messaggio dell'Evangelo e la loro vita non sarebbe stata più lo stesso. Quindi dopo pochi anni questa promessa di Gesù, vi farò pescatori di uomini, si avverò nelle loro vite. E Gesù fa questo, lui li chiama da essere pescatori di pesci a essere pescatori di uomini. Straordinario. Cioè, da una vita caratterizzata da guadagni terreni, una vita caratterizzata da confini molto limitati, li chiama a vivere una vita caratterizzata da guadagni eterni, perché ogni anima che tu salvi è un guadagno di inestimabile valore eterno, di gloria, ed è meraviglioso. Da fare pescatori, pescatori per la propria vita, vivere per loro stessi, stavano pescando pesci per loro stessi, per la loro vita, si ritrovano ad avere questo invito che permette a loro di fare una pesca per offrire vita ad altri. E questo è quello che Dio fa nella vita di ciascuno di noi. Io amo pensare a questo, mi incoraggia, è ciò che ha cambiato la mia vita. Non pensare solo che Dio ha mandato il suo figlio affinché io potessi essere salvato, perché tutti i miei peccati sono stati crocifissi su quella croce, io ora ho accesso diretto al Padre, ma sapere anche che Dio ha un proposito e uno scopo di vita per me. Non fermarti all'idea che Dio ha mandato il suo figlio solo per salvarti dai tuoi peccati. Vai oltre e comprendi che Gesù è venuto per farti sapere che lui ha un progetto di vita per te, che lui ha uno scopo di vita per te, perché tu sei una creatura di Dio e ogni cosa creata ha uno scopo. Il microfono che io sto mantenendo in mano è stato creato, inventato da qualcuno per uno scopo. La sedia sulla quale tu sei seduto in questo momento è stata creata per uno scopo. Il leggio che ho qui davanti, costruito da mio padre, da Antonio, che ringrazio, non è bellissimo questo leggio? Non siete d'accordo? Vabbè, non fa niente, poi andate a dirlo a lui. È stato creato per uno scopo. E tu sei stato creato da Dio non per inalare aria su questa terra, non solo per fare il lavoro ordinario che tu vivi, ma per uno scopo straordinario. Dio ha uno scopo di vita per te. E quando lo scopri, lì vivi pienamente, è lì che comincia la tua vita veramente. C'è un autore che ha scritto che ci sono due giorni fondamentali nella vita di una persona. Il giorno in cui nasce, ovviamente, è il giorno in cui scopre perché è nato. Sai perché sei nato? Sai che Dio ti ha creato per uno scopo? Sai che Dio ti ha creato non per essere pescatore di pesci, ma per essere pescatore di uomini, per avere una gloriosa chiamata che ha un impatto eterno, per portare cambiamento in questa terra che giace nelle tenebre, per essere tu una luce, uno spiraglio di speranza, strappando anime dall'inferno eterno per portarle a vivere la vita piena che si ottiene in Cristo Gesù. Non è meraviglioso questo? Dillo alla persona che ti sta a fianco: tu hai uno scopo di vita, esci dal lettuccio o lettino, esci dal lettino. Esci dal lettino. Dio ci chiama a vivere delle vite che danno vita, delle vite che offrono cambiamento. Mentre siamo riuniti qui, c'è una squadra di uomini che sta facendo un ritiro, lo conosciamo molto bene. E io amo pensare che in questo momento vite sono trasformate, perché posso vedere le facce di molti di voi che attraverso quel ritiro avete sperimentato, forse per la prima volta, la presenza di Dio, perché Lui è reale. E quando noi leggiamo nella Bibbia: avvicinatevi a Lui ed Egli si avvicinerà a voi, Lui mantiene quella promessa. E questo ritiro che questi uomini stanno facendo ha una garanzia, ha la garanzia nel fatto che questi uomini hanno scelto di appartarsi, cercare Dio, e Dio inevitabilmente si avvicinerà a loro, come ha fatto con le donne 2 settimane fa. Posso vedere le mani delle donne che erano al ritiro qualche settimana fa? Vogliamo fare un applauso a loro per quello che è stata la loro scelta. E sapete, nel ritiro che si sta vivendo ci sono uomini che stanno combattendo delle battaglie, ci sono uomini che stanno affrontando i giganti del loro passato, ci sono uomini che stanno vivendo la trasformazione, e ci sono poi degli uomini che sono degli eroi in quel ritiro, che sono persone che non sono andate per ottenere una vittoria personale, ma sono andate per combattere la vittoria dei loro fratelli. Ci sono degli eroi che sono andati lì per sacrificando il loro tempo, i loro soldi, la loro routine di vita, per fare in modo che altri siano liberati, per fare in modo che altri vincano le loro battaglie. E io sono così grato a Dio per la nostra chiesa, perché è una chiesa nella quale ci sono eroi che sono disposti ad affrontare la battaglia del re, non solo quella del leone, dell'orso, ma anche quella del re davanti al gigante, a favore di un popolo che ha bisogno di liberazione. Posso ricordarti questa mattina che Dio ti sta chiamando ad essere un re su questa terra e a combattere delle battaglie che non sono solo per te, ma a combattere delle battaglie a favore di tuo fratello, di tua sorella, affinché loro siano liberati. Scegli di entrare in questa dimensione di vita. Gesù ti dice stamattina: non io, esci dal lettino, perché c'è una vita meravigliosa che io ho in mente per te. Scegli di uscire dal lettino, perché io voglio fare di te un combattente che vince a favore di altri. Io voglio vivere questa vita, io sto vivendo questa vita. Ho pensato la scorsa settimana, a un certo punto ero esausto, perché passavo da un appuntamento all'altro, da un appuntamento all'altro, e più cerchiavo di svuotare la mia agenda, e più altri appuntamenti si aggiungevano. Ed è stato glorioso, perché mi sono ritrovato davanti a persone che non avevo mai conosciuto, che Dio mi ha permesso di conoscere per la prima volta, e alle quali ho potuto parlare della parola di Dio, della sana dottrina, di perseguire una vita sacrificata in Cristo. E non c'è cosa migliore che ritirarsi la sera alle 11 o mezzanotte, sapendo che tu hai fatto quell'orario non per andarti a mangiare una pizza in un luogo qualsiasi, ma per combattere una battaglia a favore del regno di Dio. E il regno di Dio avanza attraverso eroi come me e come te, e noi possiamo dircelo: stiamo facendo un ottimo lavoro. E io vi ringrazio, Chiesa, per ogni sacrificio, per ogni rinuncia che avete fatto finora a favore della vittoria di altri. Se sei qui, sappi che il tuo essere qui è perché qualcuno ha accettato di affrontare battaglie per te. Scegli anche tu di fare altre battaglie a favore di altri. L'Italia ha bisogno di te, la provincia di Bari ha bisogno di te, la Puglia ha bisogno di te. Io amo la Puglia, per questo scusate tutti gli ospiti che sono in mezzo a noi, da Reggio Emilia, dalla Sicilia. Tifiamo affinché questa regione possa essere così piena di luce nell'Evangelo e diventiamo tutti eroi, pescatori di uomini che lasciano il lettino. Ora, lasciare il lettino, che cosa significa? Lasciare il lettino significa vivere una rinuncia. Il lettino è un po' la barca e le reti dei discepoli. Il lettino è ciò che è comodo. È comodo il lettino, anche il lettone è comodo, vero? È comodo stare in un letto, è comodo stare confinati. Però posso farvi vedere un video, è molto divertente. Io credo che abbiamo da imparare da questi bambini che esperti in fuga di lettini. Guardiamo insieme questo video. Una fuga. Io spero che questa immagine ci possa rimanere, perché questa è l'immagine proprio che voglio darvi. Sii coraggioso, forse devi trovare una tua tecnica, forse devi trovare una strategia per uscire da quel lettino, forse devi sfidare quella che è la paura di farti male nell'uscire dal lettino, perché vedete, il lettino è quel posto sicuro. È quel posto dove non ci viene richiesto di cambiare, di essere strecciati. È quel luogo che conosci, è quel luogo di ordinario, è quel luogo dove sai esattamente cosa devi fare e vivi quella routine, quella monotonia, che però è una monotonia egoistica, è una monotonia che ti chiude a un piccolo mondo che non è il mondo che Dio ha riservato a te. Dio ti ha creato per uscire dal lettino. Forse una stagione ci puoi stare, a volte abbiamo bisogno di stagioni nelle quali ci mettiamo nel lettino e dove ricerchiamo la forza in Dio, però quello non è il posto definitivo che Dio ha in mente per noi. Dio ci vuole fuori dal lettino e per farlo dobbiamo imparare l'arte della rinuncia, l'arte di lasciare delle cose, di lasciare delle reti, di lasciare tuo padre e gli operai, no? Sto facendo riferimento ai discepoli, lasciare ciò che è sicuro, ciò che è garantito per afferrare qualcosa di straordinario e guidato da parte di Dio. Io voglio leggervi quello che l'Apostolo Paolo dice in Filippesi al capitolo 3 dal versetto 7, perché la rinuncia nella parola di Dio è dappertutto. Di rinuncia io potrei parlare citandovi personaggi in continuazione, dalla Genesi all'Apocalisse. ed è veramente una chiave. Il cambiamento di gloria in gloria dipende dalla rinuncia, da quanto sei disposto a rinunciare. Se vuoi passare da un livello di gloria al livello di gloria successivo che Dio ha in mente per te, devi rinunciare a qualcosa. Ma non è una perdita, non è un furto, è un guadagno. Perché si rinuncia a qualcosa, ma per guadagnare qualcos'altro. Infatti lo leggiamo dalle parole dell'Apostolo Paolo, che dice: ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale, leggete ora con me, per il quale ho rinunciato a tutto. L'Apostolo Paolo dice: io per Cristo Gesù, per la conoscenza di Cristo Gesù, ho rinunciato a tutto. E poi incalza ancora di più dicendo: io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo. La giustizia che viene da Dio basata sulla fede. Poco prima l'Apostolo Paolo ha descritto di come lui fosse un fariseo, di come lui fosse parte di una stirpe meravigliosa, di quanto lui fosse riconosciuto, quanto lui fosse in autorità, in potere. Quindi lui sta dicendo: io ho rinunciato al mio status, io ho rinunciato al riconoscimento da parte delle persone. Io ho rinunciato a un nome, a una fama. Io ho rinunciato a tutte queste cose. Non voglio più identificarmi con queste cose. Queste cose sono spazzatura. Io ho rinunciato a un guadagno stabile. Io ho rinunciato alla sicurezza dei soldi che facevo per la mia posizione, per la mia autorità, per la mia influenza. Io, anzi, ritengo che tutte queste cose siano spazzatura davanti a quello che è la conoscenza di Cristo che ho ottenuto, la salvezza per grazia in fede che ho ottenuto e la vita nuova che ho per Lui. E io credo che sto leggendo questi versi perché è importante per molti di noi ricordarci quanto eccellente è il dono di Cristo Gesù nella nostra vita rispetto ad ogni altra cosa. Non c'è altra cosa che ha più valore. Non c'è altro hobby che ha più valore, non c'è altra passione su questa terra che ha più valore, non c'è cosa alcuna terrena del tuo lettino che abbia valore tanto quanto quello di conquistare la conoscenza di Cristo e vivere il mandato che Lui ha per la tua vita. Questa è la condizione di vita per l'eccellenza che Lui ha in mente per te. Ho rinunciato a tutto. E non è stato facile. Se leggete la storia dell'Apostolo Paolo, ha rinunciato veramente a tutto. E ha sofferto. E sapete, uscire da quel lettino non significa avere solo cose straordinarie e belle. E qui è che si fa un po' pungente il mio messaggio. Non significa solo seguire il glorioso Dio che ha vinto per noi e sempre ci fa trionfare in Lui. Significa essere disposti a una sofferenza, a delle rinunce, a rivedere tutto di noi, il nostro tempo, i nostri affetti, quello che decidi di fare. Molti di noi lo sanno molto bene, quando cominci a servire il Signore è imprevedibile quello che ti succede. Una delle preghiere più rischiose che tu puoi fare è: Signore, serviti di me, sono disposto a tutto per la volontà tua. Fai questa preghiera e sei spacciato. Perché si apre davanti a te un percorso di vita che è glorioso, che è meraviglioso, che ti rende partecipe di vittorie straordinarie che hanno un peso eterno, perché vedi persone cambiare, trasformarsi, essere letteralmente salvate, le discepoli, vedi tutto questo, però questo non manca di battaglia, di sofferenza, di rigetto, di delusioni, di persone che ti trattano male. Pensate a Gesù, pensate alla sua vita. Quando lui ha invitato i suoi discepoli a seguirlo, li ha invitati a seguirlo in ogni cosa. non solo nelle guarigioni, nelle vittorie, nelle liberazioni che loro hanno visto, ma anche li ha invitati a partecipare alla sofferenza, al rigetto, alle persecuzioni, a non avere il tempo di riposarsi. C'è un episodio nella Bibbia dove Gesù dice finalmente ai suoi discepoli: andiamo all'altra riva e ci riposeremo. Pensate come i discepoli si sono sentiti quel giorno. Si riposa oggi, facciamo una gita. E hanno preso il loro picnic, l'hanno messo nella barca, sono arrivati all'altra sponda del lago e che cosa hanno trovato? Una folla pronta a risucchiare tutte le forze già esaurite che loro avevano. Ed è glorioso. Fratelli e sorelle, è glorioso vivere questa dimensione, perché è lì che sperimenti il miracoloso, è lì che senza forze, senza più farcela, che vuoi tornare nel lettino, fai la preghiera e dici: Signore, dammi forze perché da solo non ce la posso fare, e Lui diventa la fonte di forze rinnovate per te. Perché? Perché stai rispondendo alla sua missione, al suo mandato, e Lui non manda nessuno dei suoi figli a fare qualcosa senza offrirgli le forze, l'equipaggiamento per affrontare qualsiasi battaglia Dio ti sta chiedendo di fare. Tu la puoi affrontare nelle forze che Dio ti dà, perché sono inesauribili. Se sei stanco questa mattina, dici: io voglio tornare nel lettino, io ti dico: non ci provare neanche, lo sfascio quel lettino, perché hai una missione davanti a te. E la nostra Chiesa è chiamata di gloria in gloria attraverso eroi che scelgono di essere fuori dal lettino, servire Cristo ed essere intraprendenti. Domenica scorsa abbiamo parlato di intraprendenza. Non aspettare che qualcuno ti chieda di fare qualcosa. Fallo tu. Sii disposto a servire. Vai a coloro che sai essere dei leader in chiesa e chiedi a loro: come posso servire? Cosa posso fare sul terrazzo di via Santa Lucia? Cosa posso fare per pulire anch'io i locali della chiesa? Che in questo tempo abbiamo una carenza di persone, perché si suda tantissimo in questo locale, l'avete notato? E quando si lava a terra non ci sono i ventilatori accesi, non lo so perché, però vogliamo offrire la piena esperienza di sofferenza, vero Elisa? E quindi li lasciamo spenti in modo tale che tu sudi e col sudore lavi i pavimenti. Il pavimento che vedete pulito sotto di voi è pulito non con l'acqua, non abbiamo speso una goccia di acqua dell'acquedotto pugliese, è pulito col sudore di sorelle e fratelli che vengono qui durante la settimana e sono disposti a pagare il prezzo. Vogliamo fare un applauso a loro? Io voglio concludere facendo una domanda a te, così diretta, che credo che lo Spirito Santo sta facendo a tutti noi questa mattina. A cosa devi rinunciare? A cosa devi rinunciare? Non te lo voglio dire io, ho tanti punti, potrei darti tanti suggerimenti e te li darò, però a cosa devi rinunciare? La cosa migliore che puoi fare alla luce di questi versetti, di quello che ci stiamo dicendo questa mattina, è chiuderti nella tua stanzetta e dire: Signore, a cosa devo rinunciare? Perché il livello nuovo di gloria che Lui ti vuole far sperimentare passa attraverso delle cose che devi rinunciare. Com'è che quando dico delle frasi d'impatto mi escono sempre con la rima? È una benedizione dall'alto, evidentemente. Il livello nuovo di gloria che Dio ha in mente per te passa attraverso delle rinunce. Rinuncia del tempo, che in realtà è un riscatto del tempo, è un guadagno di tempo. Rinunciare a una serie televisiva, rinunciare a un intrattenimento, rinunciare a una serata fuori di svago, a quel picnic che i discepoli volevano fare per servire altri. È dura, è difficile, richiede sacrificio, ma ti porta a un nuovo livello di gloria. Rinuncia dell'ordinario, rinunciare magari a quello che è un linguaggio normale che adotti. Ho dovuto pensare a questo. Quanto spesso parliamo con un linguaggio che non è trasformato, non è guidato da Dio. È così facile far uscire dalla nostra bocca delle parole che vengono naturali, no? E noi italiani siamo esperti nel lamentarci. Giorno dopo giorno facciamo uscire dalla nostra bocca lamentela, ci lamentiamo di quella e di quell'altra persona, di questa e di quell'altra notizia. E non facciamo altro che rimanere nella condizione dell'ordinario, dove ogni altro si trova, a resettare reti, a non fare la differenza in questo mondo, a non vivere quella vita straordinaria. Cambia il tuo linguaggio, usa un linguaggio di incoraggiamento, usa un linguaggio positivo, usa un linguaggio di gratitudine, ringrazia. Sconvolgerai le persone attorno a te. Ringrazia i tuoi figli per quello che fanno di buono. Ringrazia tua moglie, tuo marito. Ringrazia i tuoi nipoti per quello che sono. Nel bacchettare, nel lamentarci, nel correggere costantemente, non facciamo altro che esasperare le persone, noi rimanere confinato in un linguaggio che tutti adottano, ma Dio ci invita ad essere diversi, ad avere un linguaggio profetico che è di esortazione, di edificazione, di incoraggiamento. Quando qualcuno ti rigetta, quando qualcuno ti tratta male, distinguerti perché vivi quella vita straordinaria caratterizzata da Cristo Gesù, che ti chiede di porgere l'altra guancia, che ti chiede di lasciare anche la tunica a coloro che ti hanno rubato il mantello, che ti dice di benedire coloro che ti maledicono, di pregare per coloro che ti perseguitano, di fare agli altri quello che vorresti essere fatto a te. Quella è la battaglia del re. Entra nella dimensione di un linguaggio nuovo, esci dal lettino del linguaggio vecchio, esci dalla mentalità del lettino, dell'ordinario, afferra lo straordinario rinunciando, morendo a te stesso, dicendo: Gesù, io voglio azzerare la mia vita, la voglio azzerare per fare, vivere, dire le cose che tu mi chiedi di fare, di dire e di vivere nelle mie giornate. Quale occasione meravigliosa abbiamo proprio oggi con la cena del Signore, davanti al pane, al vino, che sono simboli che ci vengono presentati nella parola di Dio. E Gesù dice: fate questo in memoria di me, e ci ricordano a che cosa Lui è stato disposto a rinunciare. La tua salvezza, la mia salvezza, è il frutto di una rinuncia. E che rinuncia? Gesù ha rinunciato a tutta la comodità del cielo, tutta la comodità di essere nel trono, nel regno dei cieli, dove c'era perfezione, dove non c'era mancanza, dove non c'era sofferenza, dove certamente non era rigettato, anzi era adorato. Ed è sceso per essere schernito, è sceso per essere torturato, è sceso per soffrire, è sceso per farsi appendere a una croce. E lo ha fatto per amore tuo, per conquistare la tua vita. Io oggi, davanti alla cena del Signore, voglio dire: Signore, io oggi decido ancora una volta di morire a me stesso, di prendere la mia croce e di seguirti, perché questa è la vita vera, questa è la vita piena che io voglio vivere, una vita che ha uno scopo eterno, una vita che ha una ripercussione eterna in tante altre persone. A cos'altro devi rinunciare? Forse a ciò che è comodo, scomodarti un po', a fare quello che non hai mai fatto, a prenderti una responsabilità. Dicono dei giovani della generazione nuova, i cosiddetti millennials, che sono incapaci di prendere responsabilità e di mantenere la responsabilità nel tempo. Però io credo che questa cosa vale per tutti noi. Se siete qui questa mattina è perché voi avete rinunciato a qualcosa. E io vi ringrazio per questo. E non lo do per scontato. Perché in questo momento potreste essere in tanti altri posti. In questo momento potreste essere al mare, potreste essere in qualsiasi altra parte. Invece avete scelto di essere qui per una ragione, perché Cristo è più importante, perché Cristo è al primo posto. Fai una scelta nella tua vita, fai la scelta di prenderti responsabilità a lungo termine. Fai la scelta di dire: io non mancherò a nessun incontro domenicale, perché per me Cristo, l'adorazione, l'ascolto dell'annuncio dell'Evangelo è la cosa più importante che io possa vivere ogni domenica. E dopo che fai questa scelta, e forse la maggior parte di voi l'ha già fatta questa scelta, fai altre scelte che sai che sono lì nella parola e che è Dio che ti invita a fare. Certo, per fare quelle scelte devi essere disposto a delle rinunce, ma fai quelle rinunce perché la ripercussione di gloria nel tempo che avrai è di valore inestimabile, inestimabile. Io vorrei che nel partecipare noi possiamo vivere un tempo di scelte. E prima che partecipiamo alla cena del Signore, io voglio pregare per chi questa mattina dice: io voglio scegliere Gesù. Forse è la prima volta, forse è la prima volta che dici: io voglio fidarmi di Lui, voglio che Lui lavi la mia vita dei miei peccati e che mi dia accesso al Padre, che io possa essere adottato quale figlio e vivere un nuovo percorso di vita, un nuovo inizio. Voglio fare questa preghiera con chi sceglie di fare questa cosa stamattina. E poi voglio pregare per la cena del Signore affinché tutti possiamo partecipare e vivere un tempo di intimità con Dio. Quindi vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo. Concentrarci su Gesù, perché Lui è presente. Non lo vediamo, non lo tocchiamo, non sentiamo direttamente la sua voce, ma noi abbiamo fiducia che Lui è qui ed è qui per te. Se tu sei quella persona che dici stamattina: io voglio ricevere Gesù nella mia vita, il suo perdono, voglio ridare la mia vita a Gesù, forse è una scelta che devi confermare stamattina, allora dovunque ti trovi io ti chiedo semplicemente di alzare la tua mano velocemente, un attimo, voglio vedere per chi sto pregando stamattina. Se c'è qualcuno, alza ora la tua mano, dovunque ti trovi pregherò per te. Grazie. La puoi abbassare. C'è qualcun altro? Grazie. Sono un paio di mani che si sono alzate, una terza mano, grazie. C'è qualcun altro che dice: io voglio Gesù nella mia vita, nel mio cuore, grazie. Grazie, vedo le vostre mani. Se hai alzato la tua mano, ti chiedo di ripetere questa preghiera con me. Lo facciamo tutti, Chiesa. Accompagniamo queste persone che stanno facendo questa scelta stamattina e preghiamo insieme a loro questa preghiera. Quindi ripetete con me ora: Signore Gesù, io ti ricevo nel mio cuore. Ti chiedo di perdonare i miei peccati e ti chiedo di darmi un nuovo inizio. Voglio seguirti e voglio vivere per te. Voglio essere adottato dal Padre quale tuo figlio. E ti ringrazio, Gesù, per quello che tu hai fatto per me. Entra nel mio cuore e cambia la mia vita. Amen. Amen. Padre, io voglio ringraziarti per questa preghiera che alcune persone hanno fatto per la prima volta. E voglio ringraziarti, Padre, per l'accesso a così tanta ricchezza che c'è nella Bibbia, nelle storie della parola. Noi vogliamo essere quei discepoli che lasciano tutto per seguire te. Vogliamo quella vita piena, non vogliamo essere affannati e presi, circoscritti da cose terrene, limitate. Vogliamo vivere per cose che hanno un peso di gloria eterna. Serviti di noi per essere pescatori di uomini. Serviti di noi per portare luce in questo mondo di tenebre. Serviti di noi, Padre, per fare la differenza, per portare guarigione nei malati, liberazione in coloro che sono oppressi. Serviti di noi per fare tuoi discepoli, altre persone, in altri paesi, nel nostro vicinato, nelle nostre famiglie. Rinunciamo a tutto per te. Ci spogliamo dell'ordinario, ci spogliamo di ciò che si adegua ed è conforme a questo mondo. Stamattina vogliamo abbracciare la croce e vogliamo vivere per te, Cristo Gesù. Grazie per il tuo sacrificio, grazie per quello che significa questo momento, ricordarci della tua morte e della tua resurrezione. Io benedico il pane e il vino che andremo a prendere e benedico questo tempo di intimità con te che ognuno di noi va a vivere. Parla ai nostri cuori, Gesù. Specificatamente, Spirito Santo, prego di dare indicazioni chiare ad ognuno di noi, perché vogliamo essere guidati da te. Amen.